Questa è la storia di un uomo di strada che donava le chiavi del bosco ed il suo fiato per un abbraccio. Da finestre metalliche, capelli azzurri con occhi di fuoco gli bruciavano il respiro, uccidendolo. Tra fragole vecchie lungo il viale, nella canzone del male. Tra fragole vecchie lungo il viale, nella canzone fiaba del male. Stivali di velluto verde accarezzavano le sue gambe ed il bacino era spoglio di vergogna. Da una Rolls Royce targata Marte 1, un mafioso mascherato gli bestemmia. Con fragole vecchie lungo il viale, nella canzone del male. Con fragole vecchie lungo il viale, nella canzone fiaba del male. Al torace nidi d'uccelli e per vita e sorriso lo slancio dei cervi, dove i suoi suoni arrivavano, nascevano nuovi ruscelli. E salti di gioia lungo il viale, nella canzone del male. E salti di gioia lungo il viale, nella canzone fiaba del male. Resta che il ricordo di un giorno, il dolore graffiato da macchie vivaci e del tempo di correre forte. Una giovane anguilla sfuggente si perse tra il gioco della sorte. Tra fragole vecchie lungo il viale, nella canzone del male. Tra fragole vecchie lungo il viale, nella canzone fiaba del male. Voleva infilarsi nelle tue vene e scoprire il nostro amore. Ma vestali di paura ci frenano e c'è chi muore. Tra fragole vecchie lungo il viale, nella canzone del male. Tra fragole vecchie lungo il viale, nella canzone fiaba del male. E dalla fine di una strada scalzo e lacero vagava senza meta, ma dal crepuscolo degli occhi intravedeva la sua mano che lanciava una triste piaga. Alle fragole vecchie del nostro viale, alla canzone del male. Alle fragole vecchie del nostro viale, alla canzone fiaba del male.